Buongiorno. Prima di tutto, facciamo l'appello. Gigi D'Agostino. Presente. Ok, ci siamo tutti. D'Agostino, una grande famiglia danzante. D'Agostino, reparto pelle d'oca. frequenza, benevolenza. No, poi dicono che non riesco a fare le rime. Camino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Si può fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio. Alziamo le mani, battiamole a tempo. Possiamo creare qualcosa da amare. Non voglio fermarmi, continuo a ballare. Diamo altro spazio a certi assassini. Non guardano in faccia neanche ai bambini. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Da un mondo migliore non siamo lontani. Possiamo toccarlo se alziamo le mani. Ma non per l'amore. Non giochiamo sul comodino. Proseguiamo sto cammino. Cammino di Gigi D'Agostino. E oggi va un po' dappertutto. E oggi va un po' dappertutto. Non affrontare, tu non rispondi, tu ti nascondi.

fuori, frate. Vuole scegliere continuamente di camminare sotto una luce non apparentemente luminosa, ma meravigliosamente splendente. Gigi D'Agostino. Yeah.

Ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Gi d'Agostino. Non giochiamo. Non giochiamo. Gigi D'Agostino. Non giochiamo. Non giochiamo. Gigi Style. Antidepresso. Rimani connesso. Sono legato, astornato, a una storia, a più storia, che mi mancherà come l'aria. Sono rovinato, sono sputtanato, il sangue c'è un valore che non va. Sarà forse l'alcol. Sono eccitato al solo pensiero di toccarla come piace a lei. Sono santo padre che mi fa un gesto, mi raccomando che rimanga tra di noi. E cammino, cammino, nel mio giardino e come un soldatino. Tiro, vale. lasciatemi andare, non posso pensare fare del male, nemmeno un animale, nemmeno un fiorellino, nemmeno un uccellino. Giorno ci gira intorno. M2O. Frequenza. Benevolenza. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Non sento più niente, si svuota la mente. Non so se respiro il buco, l'ozono. Non voglio capire, sapere chi sono. Chi sono, chi sono, chi sono, chi sono, chi sono. Ho fatto più spazio, qualcosa di buono. Ora può urlare, danzare il mio suono. Ho qualcosa da dire alla gente sulle pareti della mia mente. Inciso per bene sui muri del cuore, chi parla non muore, fa bene l'amore. Questo lo penso, lo dico, lo scrivo, ora lo ballo così me lo vivo. Suono nel tempo. Donano vite, colpiscono in centro. Anche rumori se suonano a tempo. Così la storiella, scrivila tu, magari più bella. Magari più bella.